voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Enzo Fontanot. Fare l'imprenditore è come salire le scale. Di Anna Marino. Ho scelto una barca in legno perché lo considero ancora un ottimo materiale, un po' delicato, specialmente per una barca tirata a vernice trasparente, però è uno dei materiali secondo me più adatti per la nautica ancora. L'importanza del legno per la sua passione e per il suo lavoro. Enzo Fontanot ha rivoluzionato e fatto crescere la sua azienda riminese di produzione di scale proprio a partire da questa materia prima ed esplorando sempre nuovi orizzonti. Oggi Fontanot ha 170 dipendenti, 300 collaboratori esterni, oltre 46 milioni di euro di fatturato nel 2008. 18.000 metri quadrati di superficie coperta distribuiti in 3 stabilimenti produttivi, 40.000 scale prodotte all'anno. Una rete di 4.500 punti vendita nel mondo. L'azienda viene fondata nel 1947 dai fratelli Albini, che costituiscono a Rimini un'azienda per la produzione di scale a Pioli e per la lavorazione del legno a livello artigianale. Il laboratorio, ubicato in città, occupa 6 persone, servendo principalmente una clientela locale. Nel 1960 l'arrivo del figlio di Albini, Carlo, determina un primo impulso alla vita aziendale. Beh, all'inizio, credo dopo la guerra, smacchinavano il legno, erano sì degli artigiani che lavoravano per conto terzi smacchinando il legno perché avevano delle macchine e quindi fornivano a loro volta altri artigiani. E poi credo sia entrato un socio, non della famiglia, che invece era un esperto in scale e si sono messi a costruire le scale. E quindi hanno fatto nel tempo un grosso scalificio dove le scale erano poi scale a Pioli, scale industriali, quindi elettricisti, imbianchini, scale aeree per arrivare ai lampioni, eccetera. Sono andati avanti così finché io mi sono un po' affacciato lì dentro, ma praticamente stavano chiudendo per raggiunti i limiti di età. I primi anni 70 rappresentano anni di cambiamento per l'azienda. Infatti, in società con i titolari Albini, entra Enzo Fontanot, istriano di origine, e nasce di fatto il marchio Albini e Fontanot. L'azienda inizia una radicale trasformazione che si orienta verso la progettazione e la realizzazione di scale a giorno, cioè aperte alla vista, tracciando così una nuova concezione costruttiva per la scala come parte integrante dell'arredamento di un ambiente. Ecco come ricorda il suo ingresso in azienda, una nuova scommessa per risollevare l'impresa di famiglia dopo aver già fatto una dura gavetta e tanti sacrifici. È un particolare curioso perché dovevano fare dei calcoli statici per una scala aerea e avevano chiesto a me di farli e li ho fatti. E quindi mi sono accorto che esisteva questo scalificio dopo aver sposato un Albini e quindi me ne sono accorto tardi. Tardi e poi mi hanno convinto in qualche modo a rimanere, le condizioni erano quelle giuste e sono rimasto assieme a mio cognato. Da lì poi è nata l'Albini Fontanot, prima società di fatto e poi è diventata una società per azioni. Io ero ancora studente in ingegneria, però siccome mi ero sposato, erano nati 3 figli, facevo una gran fatica a fare gli ultimi esami. Avevo 2 lavori, alla mattina insegnavo in una scuola di avviamento professionale e il pomeriggio lavoravo in un'impresa di costruzioni, era una vita un po' strana che mi doveva servire sia a campare che poi fare gli ultimi esami. E incontrando gli Albini ho fatto saltare tutto quanto e praticamente sono rimasto lì. All'inizio, trovando un'azienda in via di chiusura, ho cercato di potenziarla continuando a fare il prodotto già iniziato. Poi ho realizzato tutta una serie di problematiche su questo tipo di prodotto che non mi piacevano, fondamentalmente si guadagnava troppo poco, ma soprattutto bisognava vendere il prodotto direttamente attraverso fiere, quindi era una cosa piuttosto complessa, non si poteva utilizzare rivenditori o agenti. E poi un giorno per caso alla fiera di Amburgo ho visto una scala chiocciola, non ci avevo mai fatto caso alle scale chiocciola. E sono tornato a Rimini e il mio cognato me ne ha fatta subito una uguale. E da lì ho deciso di cominciare anche quel tipo di attività che mi permetteva poi appunto di creare un minimo di rete di distribuzione, quindi poter crescere con l'aiuto anche di altre persone. Gli anni Ottanta vedono il passaggio dell'azienda dalla produzione artigianale a quella industriale, grazie all'elaborazione di un sistema modulare che consente l'aggregazione di tanti elementi standard. Alla Albini e Fontanot viene conferito il merito di aver industrializzato il prodotto scala. Ecco come. Inizialmente era per forza di cose, no? Anche per la poca esperienza, quindi abbiamo provato a fare delle cose diverse, ma in quel momento le scale in tutto il mondo erano, per lo più sono ancora, scale costruite su commessa, quindi artigianalmente. Noi abbiamo cominciato a venderne parecchie, ho creato una rete di distribuzione interessante, a quel punto più se ne vendevano e meno guadagnavamo. Quindi ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava, abbiamo scoperto facendo delle analisi che i costi della complessità ci mangiavano tutto l'utile e quindi un certo giorno ho deciso che bisogna industrializzare questo tipo di prodotto, anche se non ci sono precedenti al mondo, e ci abbiamo messo un po', ma ce l'abbiamo fatta. Enzo Fontanot allarga il quadro e spiega anche com'era, a quei tempi, il Riminese, la zona e il distretto in cui cresceva l'azienda. In quel periodo la faceva da padrona la stagione e quindi l'industria alberghiera. Era molto difficile trovare anche delle maestranze, perché lavorando in quel periodo, quindi sono ancora gli anni 70, 70-80, 2-3 mesi di lavoro per moltissimi era il lavoro di tutto l'anno. E quindi era veramente difficile trovare persone, perché quella volta rendeva parecchio, si vede, il lavoro estivo. Per questo, a partire dall'industrializzazione, Fontanot ha cercato di consolidare sempre di più la propria forza lavoro. Forse anche per questa ragione noi abbiamo sempre investito sulla forza lavoro, quindi dovevamo fare molta formazione, cosa che stiamo facendo quotidianamente, ma per forza di cose, insomma, perché non c'erano persone formate. È stato molto difficile all'inizio, ma tutto sommato è difficile anche adesso, perché noi avremo almeno un 20% di extracomunitari e per quello che vanno formati, e sono anche molto bravi, perché è difficile trovare dei riminesi a fare il lavoro di falegname o fabbro, o quei lavori che facciamo noi. Sin dai primi anni 90, Fontanot si scopre come una forte identità proiettata nel futuro, divenendo leader, espressione del Made in Italy anche all'estero, dove rafforza la propria presenza con l'idea di creare un prodotto di scale in kit facile e rapido da montare, perfettamente soluzionato, ben dimensionato, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. La semplicità è stata la mossa vincente, secondo Enzo Fontanot, anche per l'internazionalizzazione. Intanto perché siamo stati i primi e quindi per un bel po' di anni siamo stati gli unici. Quindi abbiamo avuto la possibilità di crescere e di internazionalizzarci. E quindi noi oggi vendiamo 35.000 scale in giro per il mondo. Quindi abbiamo una commerciale negli Stati Uniti e un'altra in Inghilterra. Quindi noi vendiamo praticamente sia in America che in Europa, anche nell'Europa dell'Est. Nel 2009 questo percorso si arricchisce di una tappa fondamentale. L'azienda ripensa se stessa nel nuovo marchio Fontanot. Contestualmente, Enzo Fontanot diventa presidente della società, delegando nella gestione ai figli. Francesco, classe 1968, direttore generale. Michele, 1969, direttore di produzione. Laura, 1970, direttore della comunicazione. Il passaggio generazionale è un po' come salire, scalino dopo scalino. Ogni generazione può essere una svolta per l'azienda, ma Enzo Fontanot sottolinea comunque quanto sia delicato questo momento e come sia stata diversa la sua situazione. Questa è una cosa complicata, perché purtroppo io mi sono occupato solo quando ho sentito la necessità. Non sono stato preparato. Sentivo sì in giro che le cose erano complicate, ma mi sono trovato adesso a scoprire che sono effettivamente complicate. Perché il rapporto tra padri e figli, per ottimo che sia, è sempre un rapporto complesso e quindi sono tra l'altro in questa fase di passaggio. Io ne ho tre fatti in 3 anni, quindi uno è direttore generale e amministratore delegato, un altro è direttore di produzione per sua scelta e mia figlia invece si occupa della gestione dell'immagine, della pubblicità, eccetera. E il mio non si può dire un caso di passaggio generazionale, perché io con i parenti di mia moglie non rappresentavo il figlio, no? Anche se potevo essere un loro figlio. Quindi l'atteggiamento che loro hanno avuto con me e io con loro è stato forse più semplice dell'atteggiamento che i figli hanno col padre e viceversa. C'è questo rapporto padre-figli che è molto complesso. Finché non è entrato nel mio mondo, quindi nel mondo del lavoro, il rapporto con i miei figli è stato sempre ottimo, eccezionale. Qui invece ci sono più complicazioni, un po' anche per una questione di età, un po' per la soggezione che può mettere il padre con il figlio, oppure certe cose non fanno fatica a dirle. Insomma, è una cosa complicata che però in questo momento noi stiamo gestendo anche con l'aiuto esterno. Obiettivo già raggiunto invece è il bilanciamento tra vita e lavoro, per Enzo Fontanotte. Da quando lavoro sono riuscito ad andare in montagna quasi tutte le settimane, fine settimana. Anche quest'anno mi sono fatto quasi 2 mesi di crociera in barca a vela. Io la barca a vela ce l'ho da sempre e anche quando erano piccoli noi andavamo via con barchette più modeste, ma andavamo via tutto il mese di agosto. Quindi io sono sempre riuscito a conciliare la vita, la famiglia e il lavoro. Ci vogliono dei buoni collaboratori intanto, perché altrimenti si cade tutto sulle spalle di uno, questo qui per bravo che sia non ce la fa. E io sempre, forse sono capace di delegare, immagino. Ed ecco come l'azienda ha pagato il pedaggio della crisi. L'abbiamo sofferta, infatti siamo quest'anno, guardavo, 13% in meno in Italia e 11% in meno all'estero. Tra l'altro noi vendiamo il 52% all'estero del nostro fatturato. E quindi sì, non ci aspettavamo tutto sommato, perché eravamo già 5 anni con una bella crescita, siamo arrivati a sfiorare i 50 milioni di fatturato, poi improvvisamente ci siamo fermati. Però nel frattempo non siamo mai stati spreconi, insomma l'azienda era ben patrimonializzata, abbiamo cercato di inventarci tutte le scuse per continuare a mantenere le maestranze. Adesso quest'anno, poco prima delle ferie, abbiamo fatto un po' di cassa di integrazione, naturalmente ci siamo mossi abbastanza velocemente, abbiamo fatto prodotti che richiedevano soprattutto alla grande distribuzione, quindi scale a un prezzo un pochino più basso. Cerchiamo di muoverci, ma non è chiaro per niente, purtroppo. Bisognerebbe delocalizzare e questo mi dispiacerebbe moltissimo. Enzo Fontanotte ha da sempre un'idea ben precisa di com'è fare l'imprenditore. Fare l'imprenditore è un po' come salire le scale, quindi sempre in salita e il fatturato deve aumentare, non si deve mai fermare, come al solito chi si ferma è perduto, insomma vale anche questo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.